bella tu sei stata della nostra compagnia. Eri un po' la fidanzata, eri un po' la fantasia. Poi un giorno sei sparita, non so quando, non so come. Hai cambiato la tua vita, hai cambiato il tuo cognome. Tu sei una di noi, la ya la ya, anche se non lo vuoi. Chi ti vede non ti crede, chi ti conosceva ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo non ti riconosco più. Lunghe sere di canzoni, pochi soldi, molto vino. Quante belle ispirazioni quando tu mi eri vicina. Oggi sei la più elegante del San Carlo e della Scala. Senti musica importante che una volta ti annoiava. Tu sei una di noi, la ya la ya, anche se non lo vuoi. Chi ti vede non ti crede, chi ti conosceva ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo non ti riconosco più. Oggi è il giorno della festa, sentirai le nostre voci. Ti apriranno la finestra le canzoni che conosci. Ma se provi nostalgia non mostrare che sei triste. Guarda giù con simpatia come fanno le turiste. Tu sei una di noi, da la la, anche se non lo vuoi. Chi ti vede non ti crede, chi ti conosceva ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo non ti riconosco più. Tu sei una di noi, da la la, anche se non lo vuoi. Chi ti vede non ti crede, chi ti conosceva ormai non ti dà del tu. Io che ti volevo non ti riconosco.